La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, questo giovedì 12 ottobre, quindi cos'è? Columbus Day, la scoperta dell'America, però in realtà noi, ve lo dico subito, oggi parliamo non del voto di fiducia che è ancora in corso, seconda giornata, si dovrebbe chiudere entro questa sera alla Camera dei Deputati, l'iter parlamentare, brevissimo perché il governo ha messo la fiducia, quindi oggi c'è la seconda e la terza fiducia, e poi c'è il voto finale senza fiducia con lo scrutinio segreto, e lì si capirà davvero se la legge elettorale va avanti o meno. Ma invece, tenendo questa vicenda sullo sfondo, torniamo ad occuparci di uno dei capitoli su cui resta un interrogativo aperto. L'interrogativo aperto è vero o non è vero che nell'accordo per la richiesta di fiducia accettata dal governo e posta sulla legge elettorale c'è anche una richiesta di procedere nello stesso modo da parte del governo sullo ius soli? Ecco, noi parliamo quindi oggi pomeriggio esattamente di questo tema: cittadinanza, i meccanismi della cittadinanza nel nostro paese e immigrazione. Sapete che sulla legge del cosiddetto ius soli, e discuteremo anche meglio se è davvero corretta chiamarla legge dello ius soli, si è vissuto negli ultimi mesi un vero e proprio, dal punto di vista del PD almeno, incidente politico, per così dire. Cioè Renzi ha voluto accelerare molto, ci ha tenuto a sottolineare che era una legge manifesto, identitaria, importantissima per il PD in questa legislatura. Dopodiché, di fronte ai risultati delle amministrative, in cui era evidente che sull'immigrazione e sulla cittadinanza il tema contribuiva a un risultato negativo o deludente per il PD e avvantaggiava altri, piede alzato dall'acceleratore e opinione a quel punto durissima da parte di Alfano e dei suoi partiti, che ha ritenuto giusto di ribadire che non c'era più la condizione e ha negato il sostegno. E adesso invece all'ultimo momento nella legislatura una specie di resipiscenza per dire portiamola a casa, vedremo. Ma se questo è lo scenario politico, che però è uno scenario politico importante perché nel frattempo il governo ha la fiducia sulla legge elettorale, l'ha messa, vedremo entro stasera se poi regge anche all'unico voto segreto che è rimasto oppure no. La questione diventa: ma la legge che mischia un po' di ius soli, un po' di ius culture, come si suol dire, vedrà la luce oppure no? Io purtroppo, ve lo dico subito, scommetto per il no, ma magari mi sbaglio. Ma intanto vediamo un pochino di numeri, perché nel frattempo, tre giorni fa, l'Istat è uscito con una release il 10 di ottobre, quindi l'altro ieri, in cui ha fatto il punto sui numeri nel 2016-2017 sui cittadini non comunitari. E ovviamente i giornali hanno rilanciato soprattutto uno dei numeri, e cioè quello per il quale, se andiamo a vedere, prendendo qualche anno come campione storico alle nostre spalle, come campione storico di riferimento, beh, nelle acquisizioni di cittadinanza il numero dei nuovi cittadini italiani nel 2016 è cresciuto in maniera molto significativa. Nel 2011 49.834 acquisizioni di cittadinanza da parte dei non italiani, mentre invece nel 2016 184.638. Ecco, quindi le acquisizioni di cittadinanza di cittadini non comunitari per motivi vari e diversi, i giornali l'hanno ripreso e rilanciato molto come tema, dicendo: beh, ma abbiamo davvero poi bisogno di una nuova norma che riveda l'estensione della cittadinanza, se già nei numeri la realtà è quella di un significativissimo aumento dei nuovi cittadini l'anno scorso, mentre invece se andiamo a vedere la presenza, i nuovi ingressi, quindi il trend, è un trend che vede segno meno, perché da una parte c'è la crisi, dall'altra ci sono i segni di ciò che poi nel 2017 ha preso corpo con la radicale diminuzione dei nuovi arrivi per via delle politiche di Minniti. Comunque sia, la variazione sul 2016 sulla presenza di cittadini non comunali vede un meno 5,5%, e anche i nuovi ingressi, un -0,5% con 226.934 nel 2016 rispetto al 2015. Allora, io mi limito a richiamare questi numeri qua, però tentiamo di capirli meglio. Intanto abbiamo due ospiti con i quali approfondire sia l'aspetto numerico sia l'aspetto politico, la cornice nella quale mettere il dibattito e le ragioni se procedere o meno nell'esame e nell'approvazione della legge sullo ius soli. Allora, i due ospiti sono, intanto li presento e li ringrazio. Il primo è Giancarlo Blangiardo, che insegna demografia alla facoltà di scienze e statistiche all'Università degli Studi Milano Bicocca. Grazie di essere con noi, buon pomeriggio professore. Buon pomeriggio anche a voi. E Riccardo Maggi, segretario dei Radicali Italiani. Grazie di essere con noi, Riccardo. Buon pomeriggio, grazie. E con Riccardo vedremo che c'è un altro aspetto. Chi dice no alla legge sugli ius soli dimentica che per le leggi che sono già vigenti nel nostro paese, noi magari a persone che hanno solo un lontanissimo avo nell'Ottocento italiano, la cittadinanza gliela regaliamo senza nessuna richiesta di adesione a valori, conoscenza della lingua e così via. Molti lo dimenticano, ma è così nel nostro caso nazionale. La singolarità di un paese che ha dato cittadinanza, eccetera, e dopodiché scopre che pensa di non averla data e che sia giusto non darla. Allora, Blangiardo, cosa vogliono dire questi numeri di cui io ne ho ricordato? Dato solo pochi della release dell'Istat da questo punto di vista, cioè di acquisizione di cittadinanza di non comunitari, sono tante, sono poche, come le valuta questi voti? Allora, quello che ha detto lei prima, cioè siamo di fronte ad una situazione in cui una legge che continuiamo a dire non ci piace, non è bella, non funziona, produce dei risultati che ci collocano in una posizione leader a livello europeo. I 184.000 di cui si parlava prima si riferiscono agli extracomunitari, se ci mettiamo insieme anche i comunitari arriviamo a 202.000 complessivamente. Di questi 184.000 va ricordato che il 41,2% riguarda persone con meno di 20 anni, quindi i famosi bambini che non possono diventare italiani. Bisogna ricordare, e i giornali non lo fanno mai, che questa legge ha un articolo, l'articolo 14, la legge attuale, il quale dice che qualora uno dei genitori diventi italiano, tutti i minori a carico diventano italiani, salvo poi a 18 anni decidere che ritornano ad essere quello che erano prima. Ora, questa situazione, trasmissione di cittadinanza, in maniera, siamo a questo punto a livello europeo il paese percentuale di minori che diventano cittadini. Aspetta, ecco. vai viene, siamo a livello europeo il paese con la più alta percentuale di minori? Esattamente, di minori che acquisiscono la cittadinanza, cioè eravamo superati dalla Francia fino a qualche anno fa, un paio d'anni fa, e adesso evidentemente con questi dati siamo tornati ad essere al primo posto, oltre ad essere già al primo posto come numero assoluto di concessione di cittadinanza. Quindi abbiamo una legge che probabilmente, anzi sicuramente va migliorata, dobbiamo farle un tagliando. Abbiamo il problema di coloro che hanno già superato i 18 anni e per qualche motivo di varia natura, anche burocratica, non ce l'hanno fatta, quindi poverini devono, eccetera. Ne parliamo, però ciò non significa cambiarla radicalmente. Come si spiega rispetto, lei ha ricordato l'articolo 14 della legge attuale consente a, è il caso che lo ripeta perché questo è veramente una delle cose meno note, però uno dei fenomeni con i quali chi si occupa da anni del meccanismo delle concessioni della cittadinanza a chi ne ha maturato a leggi vigenti il diritto, quindi non sto parlando del nuovo regime della cosiddetta legge sullo ius soli, è quello di verificare che in moltissimi casi dalla maturazione del diritto al riconoscimento formale alla concessione passano anni, anni e anni. Questo tema, nella sua osservazione, so che lei si occupa di demografia, ma è un tema che nell'esame comparato dei paesi alle prese con fenomeni analoghi e con quantitativi molto rilevanti, la Francia, la Germania, è un'anomalia italiana che ha solo motivi burocratici o è stata sabbia messa negli ingranaggi per ottenere l'effetto di diluire la concessione, di diminuire quindi per gli extracomunitari in questi anni, vista la pressione che c'era nel dibattito pubblico del paese? Lei che pensa, professore? Ma, dunque, io sono convinto che ci fosse una debolezza del sistema, ma un po' per mancata pratica, nel senso che abbiamo faticato a diventare un paese di immigrazione e quindi anche tutto quanto in qualche modo è connesso ha faticato ad adattarsi. però ho notato che in questi ultimi tempi anche da parte delle prefetture c'è stato spesso un miglioramento delle procedure, dell'attività, una maggiore, come dire, esperienza da questo punto di vista e anche una preparazione, perché io so che ci sono delle prefetture che stanno già organizzandosi perché hanno preso atto che l'iter è permesso di soggiorno a scadenza, permesso di soggiorno di lungo periodo, cittadinanza. Allora, essendo aumentati i permessi di soggiorno di lungo periodo, è chiaro che stanno aspettandosi che il passaggio successivo si verificherà. Quindi direi che è vero, c'è ancora un problema di burocrazia, c'è ancora un problema di tempi, però da questo punto di vista qualcosa sta migliorando e sono convinto potrà ulteriormente migliorare in prospettiva. Senta, se i dati dell'Istat testimoniano che sia in termini di presenza, sia in termini di nuovi ingressi c'è un segno meno, il fenomeno in cui invece il segno resta in forte, fortissimo aumento è quello dei richiedenti asilo. Ecco, da questo punto di vista, sempre dal suo osservatorio, perché poi le faccio una domanda finale sugli equilibri di cui abbiamo bisogno rispetto alle stime pluriennali che ci aggiorna sempre l'INPS, delle coorti aggiuntive necessarie di lavoratori extracomunitari potenzialmente calcolabili nei prossimi anni per l'equilibrio dei conti previdenziali. Ma al netto di questo e prima di questo, sull'asilo, noi abbiamo, secondo lei, un problema da ridefinire politico per i requisiti oppure in realtà questo problema è secondario, perché non, è meglio non distinguere troppo tra chi richiede asilo e le altre, diciamo così, ragioni, perché nel nostro paese, lo sappiamo, è sempre stata prevalentemente di altra matrice la ragione che ha spinto la gente a venire qua, quasi sempre per la volontà di andare altrove in Europa, ma poi dovendosi fermare quando la porosità delle frontiere con l'Europa è diventata molto inferiore negli ultimi 2 anni. Lei che dice su questa cifra dei richiedenti asilo in aumento? Come fenomeno demografico sto parlando, non politico. Dunque, è una realtà, chiaramente lo vediamo tutti, è in crescita e se dovessimo estrapolare continuerà a crescere. Serbatoio, l'Africa, l'Africa è un serbatoio tutto sommato molto, cioè noi in fondo abbiamo rinunciato in maniera definitiva quasi a quelli che erano i flussi di ingresso per lavoro. Pensiamo ai provenienti dal Bangladesh. Chi arriva dal Bangladesh attraverso le barche, i gommoni e quant'altro? Questi è gente, sono migranti economici che una volta in qualche modo da altre vie, e a questo punto non essendo città di entrare per fare un lavoro in maniera tradizionale, si sulla barca e ci arrivano ovviamente con tutto il caso. Quindi riflettendo su una situazione che ha generato e che viene accettato. No, ecco, io dico solo che dal punto di vista demografico questo c'è una questione politica. Io credo che politicamente noi dobbiamo rendere più chiara la lista dei paesi dai quali, secondo me, è giusto concedere il riconoscimento della possibilità di richiesta di asilo, perché credo che noi abbiamo avuto una politica un po' restrittiva. Questa è la mia opinione, ma questo dipende dalla mia concezione dei diritti umani e dell'azione che le democrazie occidentali devono esercitare nel mondo da questo punto di vista. Ma il problema demografico, secondo me, è che in particolare per coloro che richiedono asilo in Italia, e qui abbiamo una percentuale straordinariamente elevata di soli uomini, e qui c'è tutto un discorso da fare sui paesi di provenienza di chi richiede asilo nel nostro paese rispetto a quanto avviene in altri paesi europei, perché riguarda il capitale umano molto meno formato, il fatto che poi significa ovviamente anche, io sono per un'estensione della concessione delle richieste dell'asilo politico, ma significa dover mettere in conto poi politiche successive di ricongiungimento delle unità familiari e così via. Quindi è un problema sicuramente delicato, ma è quello che di sicuro è ancora in crescita anche nei dati del 2016. Allora, intanto grazie al professor Giancarlo Blangiardo, che è stato con noi per vedere esclusivamente l'aspetto quantitativo, come emerge dalle cifre dell'Istat di 2 giorni fa. Con Riccardo Maggi, invece, segretario dei Radicali Italiani, iniziamo a vedere la questione da un altro punto di vista, cioè iniziamo ad avvicinarci al dibattito su Ius Soli sì, cioè riprenderla in questa legislatura, tenerla così com'è, ridiscuterne alcuni punti, oppure, come dicono altri, i prevalenti nel dibattito pubblico, ma no, gli italiani non vogliono, è un errore clamoroso, anche chi era favorevole ha spesso cambiato idea in questo senso, sto parlando di Osservatore, Ernesto Galli della Loggia, Pane Bianco, così via, anche del campo liberale, per così dire. Io non sono molto convinto di questo, ma soprattutto non mi convincono i ragionamenti che non siano fondati su delle considerazioni politiche. Io ho sempre trovato, per esempio, che dire no ulteriori criteri di concessione, a oggi noi abbiamo una legislazione che tra virgolette regala potenzialmente ad alcuni di milioni di discendenti da un solo avo, basta uno, generazioni e generazioni fa, la cittadinanza. Nessuno si è mai posto il problema di andare a vedere se parla italiano, condivide i nostri valori. Allora, è singolare un paese in cui noi abbiamo una legge di questo tipo e poi invece abbiamo una lista ristrettissima di paesi a cui riconosciamo il diritto della richiesta d'asilo, ma questa è una mia opinione personale. Allora, Riccardo Maggi, che dici? Perché voi avete anche il merito di curare, avete curato qualche mese fa uno spettacolare rapporto dedicato proprio ai problemi dell'immigrazione e migranti in Italia rispetto alle politiche comparate europee, è un tema che sta carissimo a Emma Bonino. Allora, che ci dici, Riccardo? Ma è molto singolare in effetti il dibattito che si è sviluppato su questo tema ed è stato travolto, diciamo così, dall'allarmismo e anche dalla confusione. Ora si tratta di capire se il nostro legislatore e le forze politiche che hanno più peso all'interno del Parlamento intende, diciamo, per una volta non essere accondiscendente con l'allarmismo, la fobia, l'ossessione dell'invasione. Qui parliamo di una norma intanto che riguarda i bambini, perché si tratterebbe di concedere attraverso lo Ius Soli temperato o attraverso lo Ius Culture cittadinanza italiana a chi nasce in Italia da genitori che non saranno come quelli che si dice prima, cioè che non acquisiranno la cittadinanza e quindi automaticamente la potranno dare ai loro figli, o cittadini, bambini minori, ne arrivano alcune decine di migliaia negli anni, che arrivano molto piccoli, più piccoli dei 12 anni, e poi fanno dei cicli scolastici completi nelle nostre scuole. Di questo si tratta, cioè che non debbano aspettare il 18° anno di età per fare la richiesta, che poi richiederà molti anni. Crea dei problemi, ad esempio molti ne abbiamo ascoltati per le gite scolastiche, molti ragazzi non possono andare all'estero se la loro classe va con le gite scolastiche. Che uno può dire, le gite scolastiche, su Giannino e Maggi. No, è uno dei classici segni in cui si costruiscono esperienze vitali fondanti, le gite scolastiche sono questo, e quindi oppure essere esclusi lì, esatto, esperienze in negativo. Esattamente, essere esclusi lì è una proprio classica pietra miliare di non appartenenza a una comunità, perdonate, io non è che sto dicendo viva le gite scolastiche, però sono uno dei passaggi fondamentali, quindi o hanno anche una loro importanza. O anche la partecipazione a magari appena terminate le scuole superiori o il ciclo universitario a concorsi pubblici di vario tipo. Insomma, di questo noi stiamo parlando di una manutenzione, di una riforma, di una norma che è eccessivamente restrittiva e distorta nel senso in cui diceva lei prima, cioè da una parte si concede a cittadini di cui si rintraccia un avo e che non hanno magari nessun contatto, esatto, di tipo culturale né con il territorio, e dall'altra la si nega in questa maniera un po' ossessiva a bambini che non hanno mai conosciuto il loro paese di origine e conoscono come unico paese. Allora Riccardo, intanto resta lì, resta con noi, perché ci ha raggiunto e non so per quanti minuti poi potrà restare, perché noi tra poco abbiamo la prima interruzione, ma spero che possa restare anche oltre, il direttore di Avvenire, Marco Tarquinio. Avvenire, io che ringrazio molto di essere con noi. Buongiorno. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Allora, io ringrazio molto Avvenire, perché Avvenire è in queste settimane e in questi ultimi mesi in cui lo Ius Soli, lo Ius Culture, meglio che Ius Soli, perché la gente crede che sia Senato qua tra regalo, non è così la legge di cui si parla. Comunque, nel caos che è diventato politicamente prevalente sul sì o no disegno di legge dopo le amministrative, ha tenuto botta Avvenire dicendo: scusate, parliamo del merito e spiegateci se avete cambiato idea, perché l'avete cambiata idea? Ma ce lo spiegate nel merito, non per le amministrative di qua, di là. Però lei sa, direttore, che rispetto ai richiami venuti dai vescovi e dalla Chiesa su questo tema, la risposta che una parte del prevalente, apparentemente prevalente, dello schieramento politico, e la stessa risposta venuta dal partito di Alfano, è stato no, no, no, è stato un errore, non ci sono le condizioni. Perché, secondo lei, hanno paura del voto o hanno cambiato idea nel merito o non hanno mai capito nel merito la questione? Ma no, la questione credo che sia stata capita, buon pomeriggio di nuovo a tutti. Dico, credo che la questione sia stata capita perché ne parliamo ininterrottamente dal 2010. Sono 7 anni che è all'ordine del giorno la riforma della legge sulla cittadinanza alla luce delle nuove condizioni e dell'esperienza maturata in questi anni. Avete già richiamato tutti i termini fondamentali, il problema dei discendenti degli italiani all'estero, il problema dei nuovi italiani e tutto quello che sappiamo. Quindi i termini della questione sono, se si vuole, chiari. Il problema è che sopra la questione della legge della cittadinanza è stata incrostata volutamente a suon di slogan che sono partiti dalla politica, ma che una parte purtroppo del sistema mediatico ha assunto come parte integrante del discorso sulla cittadinanza, slogan veramente insopportabili e odiosi. La retorica dell'invasione, la retorica dello sradicamento culturale dell'Italia, cioè nel momento in cui si affrontava, e ci è voluto un po' perché maturasse in questa direzione, secondo me la legge potrebbe essere anche più snella, però così come si affrontava la questione di come la cultura italiana può essere contagiosa, i valori che abbiamo posto alla base della convivenza civile con la nostra Costituzione possono e devono diventare la misura comune per quelli che vengono a vivere, a lavorare, a studiare nel nostro paese e desiderano di radicare qui la loro vita. Nel momento in cui si parlava di questo siamo entrati in un tunnel allucinante nel quale il problema non era più il valore della cultura italiana e di ciò che le nostre scuole, i nostri luoghi comuni di civiltà sanno trasmettere, ma l'invasione di altri rispetto al nostro modo di essere. Io capisco le paure di una parte dell'opinione pubblica legate anche alla gestione non tutt'altro che perfetta dei fenomeni dei flussi migratori di questi anni che sono stati irregolarizzati e quindi sbattuti nelle condizioni che sappiamo, per le strade, nei luoghi pubblici, in certe situazioni soprattutto. Ma non capisco quelli che le paure le ingigantiscono e le coltivano. La politica ha una responsabilità più grande di spiegare i termini esatti delle questioni. Lo sforzo che abbiamo fatto come Avvenire è stato quello di, come con i miei colleghi, di far guardare in faccia le persone allora, di cui stavamo parlando. Allora, dopo la pausa da cui andiamo adesso in borsa, di nuovo col direttore Tarquinio e Riccardo Maggi, però col direttore dell'Avvenire, ritorniamo dal punto, perché lui è stato autore, cioè io dico inchiodato, un termine giornalistico troppo duro, ma per capirci, uno degli esponenti di punta del partito Alleanza Popolare, quindi Alfano per capirci, nella fattispecie era Lupi, esattamente sul punto dice, ma voi perché avete cambiato idea? Ce lo spiegate nel merito? Ed è la stessa domanda, perché la risposta e poi il carteggio che c'è stato, secondo me dà proprio l'idea di qual è il punto di fondo. Cari ascoltatori, lo vedo dagli sms che anche voi dite, venduti, volete svendere l'Italia. No, guardate, questa è la maniera più, perdonatemi l'aggettivo, demente di non capire la questione di cui stiamo parlando. Torniamo dopo la borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta la versione di Oscar. Eccoci qui tornati, stiamo parlando, partendo dai numeri che ci ha aggiornato l'Istat il 10 ottobre, l'altro ieri, su i non comunitari in Italia, nuovi ingressi segno meno, presenza segno meno, acquisizione di cittadinanza molti di più rispetto al 2011, 184.000 rispetto a 49.000, perché la legge attuale già consente una cosa di questo genere, e invece richieste di asilo in forte aumento. E punto interrogativo sul fatto se noi come Italia abbiamo una politica nel riconoscimento nella definizione dei requisiti del riconoscimento del diritto di asilo adeguata al fenomeno. Ma col direttore di Avvenire, Marco Tarquinio, che con noi, riprenderei il discorso dove l'avevamo lasciato prima della borsa, e cioè voi avete chiesto esplicitamente a un pezzo di maggioranza che ha detto mai più in questa legislatura no, dopo aver per anni invece lavorato al disegno di legge su Ius Soli e Ius Culturae, e gli avete chiesto direttamente e loro vi hanno risposto, ma vi hanno risposto in una maniera che secondo me sembravano due lingue diverse rispetto a quello che dicono ai giornali tutti i giorni. Come mai? Io sono un po' più ottimista e spero che ci sia ancora uno spiraglio. Per la verità, come è stato detto, ho preso in punto di reputazione i parlamentari di AP, ma anche tutti i liberali, gli autentici liberal democratici, ovunque collocati nello scenario politico. No, certo. Ecco, a destra, al centro, a sinistra, riguarda tutti. La questione della cittadinanza è veramente, in termini di giustizia, la questione riguarda tutti. Il problema qual è? Che non si può dire che questa legge alla quale si è lavorato, perché la legge, il testo attuale è frutto di una mediazione che ha rafforzato il principio di ius culturae, che a me è sommamente caro, come si è capito dalle cose che ho detto prima, è la questione cruciale di una legge sulla cittadinanza nel nostro paese. Io non sono favorevole allo ius soli semplicemente automatico, non basta, certo. Non basta nascere in un paese, l'America, altri paesi di grande immigrazione hanno sempre lavorato, battuto su questo tasto. In Italia serve un'altra cosa, serve un'adesione ai nostri valori di fondo. La nostra scuola secondo me è in grado di darlo, che se ne dica, se ne continui a parlare male. Il clima di vita delle nostre città è in grado di darlo, è stato sempre in grado di darlo fino adesso. La politica purtroppo non in grado di dirla in maniera sensata questa parola. Però che cosa è stato detto? Se la legge da parte di AP, con l'ultimo rilancio che aveva fatto Lupi, se la legge venisse corretta in alcuni piccoli punti, siamo disposti ad approvarla anche con una procedura particolare. E io ho detto, se avete in questo paese, si è fatto ricorso al voto di fiducia per approvare il Jobs Act, per approvare la legge sulle unioni civili, non vedo perché allora sia uno scandalo usarlo in caso di necessità, se davvero ci deve essere un ostruzionismo totale anche per una legge sulla cittadinanza. Secondo lei, Tarquinio, mancano di meno i diritti dei nuovi italiani, certo, che sono i compagni di scuola dei nostri figli, stiamo parlando. Stiamo parlando dei compagni di scuola dei nostri figli, dei figli dei nostri compagni di lavoro. Di persone che conosciamo, che guardiamo in faccia ogni giorno, ragazzi che sono cresciuti qui e si sentono dire da un dibattito politico dissennato: tu italiano non sei. Se poi qualcuno dentro questa sofferenza, perché è una sofferenza vedersi anche rifiutati ingiustamente, dovesse seminare semi malvagi, qualcuno avrà agevolato, avrà arato la terra in questo senso. È già accaduto in Francia, è già accaduto in Germania, è già accaduto in altre parti. Le leggi sono state messe a posto in quei paesi. In Italia non possiamo perdere l'occasione di fare una cosa giusta. Senta, direttore, io le faccio una domanda da laico, che gli è capitato spesso nell'arco della sua vita di non condividere alcune prese di posizione della Chiesa italiana, che nasce aderendo da ragazzino a una formazione molto laica. Però la domanda che mi faccio io invece questa volta è autocritica, e la chiedo anche a lei: nel non saper mettere nel dibattito pubblico, sto parlando anche dell'informazione, non sto parlando solo la Chiesa, la politica, eccetera, da laico io sono entrato in crisi, e mi faccio la seguente domanda: a non saper spiegare alla gente, perché guardi che a vedere le mail che arrivano, gli sms degli ascoltatori di questo campione, gli ascoltatori di Radio 24, le posso garantire in questi 3-4 anni la trasformazione dei toni, la durezza di pancia, la violenza di alcune connessioni mentali automatiche, difendiamo la patria, solo gli italiani prima, ci levano il necessario, ecco, questa roba qua negli anni precedenti non c'era. Questo collasso mentale, io parlo di collasso mentale, rispetto chi la pensa così, però non posso non vedere i segni di qualcosa che non funziona nel pensiero diffuso, ed è trasversalmente politico e culturale, non è di chi non ha studiato, di chi ha studiato, è una roba che a me preoccupa. E mi sono posto la domanda che le faccio, direttore: chi è che non ha saputo spiegare bene cosa vuol dire essere cittadini italiani, di quali gradini bisogna avere l'idea moderna di considerarli indeclinabili, irrinunciabili, cioè quelli attraverso cui bisogna passare per dire sì, sei un cittadino italiano. È stata la concezione laico, laicista dell'idea dell'ordinamento sacro dello Stato, che poi alla fine si traduce in una roba che non si riesce più a identificare in valori positivi. Oppure perché sono poi, quando parla la Chiesa, adesso la gente inveisce come se stesse dicendo chissà che cosa, che volesse svendere l'identità italiana? Quale delle due parti della dottrina pubblica ha la responsabilità peggiore, secondo lei? Intanto vorrei dire questo, che c'è una parte dell'opinione pubblica che inveisce e strepita, ma c'è un'altra parte che ascolta e ragiona. E come al solito quelli che fanno più rumore sono quelli della minoranza rumorosa. Quindi io parto sempre da questa base. Gli italiani non hanno cambiato pelle e testa all'improvviso completamente, da un popolo che non è mai stato veramente razzista, non sono diventati una cosa diversa. Ci sono delle parole che hanno colonizzato il dibattito pubblico, ma la realtà del popolo italiano è un'altra dal mio punto di vista. Forse qualcuno mi considererà ottimista, ma questa è la verità. Per i sensori che ho, io credo che nel dibattito pubblico ci sia stato un doppio rischio: uno, forse un eccesso di sacralizzazione della nostra identità, nel senso di una laicità che poi non è vissuta e quindi non è attuata, perché uno dei principi laici della convivenza è l'accettazione delle differenze e la composizione in armonia dentro la misura comune, come dicevo prima. Allora, notato che io sono di fede cattolica, sono cittadino di questa Repubblica e il discorso che svolgo su questo piano è assolutamente su un piano di valori laici, no? Non ho messo in campo niente della mia fede che mi porta a una scelta umanitaria di tipo diverso, a un concetto di fraternità. Però anche l'aspetto umanitario è come se si fosse inaridito. Questo è vero fino a un certo punto, ripeto, noi diventiamo o sembriamo aridi e respingenti quando guardiamo le cose dall'alto e giudichiamo le persone e le situazioni dall'alto. Quando ci mettiamo ad altezza d'uomo e di donna, quando guardiamo in faccia le persone ad altezza di bambino, di ragazzo, e riguardiamo in faccia le persone di cui parliamo, il discorso che gli italiani fanno cambia completamente. Ce ne sono di esagitati, ma sono una parte minima. Ecco, dall'altra parte c'è attenzione, c'è il rischio di una sacralizzazione sbagliata dell'identità, e dall'altra parte c'è un rischio di deriva totalitaria rispetto all'idea dell'identità. L'identità è la cosa più importante per potersi confrontare con gli altri, non è una fortezza arroccata l'identità, è la condizione di apertura dal mio punto di vista. Allora, io benedico questo ottimismo antropologico di cui è portatore il direttore di Avvenire, perché senza l'ottimismo sugli esseri umani non si fanno grandi passi in avanti, questo io lo riconosco. Io invecchiando sono diventato forse un po' troppo pessimista dimentico forse che chi manda quale invettive poi insomma non è un campione rappresentativo, se non però del nostro campione di ascolto, che comunque non era così. Allora, intanto grazie anche al direttore di Avvenire. Adesso andiamo alle informazioni sulle strade e con noi è sempre rimasto, lo ringrazio per la pazienza, Riccardo Maggi, segretario dei Radicali Italiani, e torniamo con lui a chiudere tornando sulla legge. Cosa ci aspetta? La versione di Oscar. Allora, eccoci tornati in diretta e abbiamo esaminato in questa puntata, e lo so che ascoltatore, lo so che il tema è divisivo, siete convinti che sia uno slogan umanitario, la svendita. Abbiamo tentato di riflettere su questa questione della legge sul cosiddetto ius soli, poi non è così, è una legge sullo ius culturae più che sullo ius soli, non è la concessione automatica a chiunque nasce in Italia subito la cittadinanza, che si è arenata dopo le amministrative, il PD ha cambiato idea, poi Renzi ha di nuovo cambiato idea, domanda adesso al governo, ci mettete la fiducia se passa la legge elettorale entro stasera oppure no, dubbi di Alfano. Abbiamo avuto con noi prima il professor Blangiardo, che ci ha detto comunque i numeri, come si vede, ci dicono che le acquisizioni di cittadinanza già con la legge attuale aumentano significativamente e questo la politica tende a dimenticarlo. Ci siamo posti il problema se sulla componente diritto d'asilo non si debbano rivedere un po' di cose in Italia. Io dico di sì, e non è una questione così di svendita, è una questione di avere che idea avere delle politiche che deve fare l'Italia e una liberal democrazia rispetto ad alcuni paesi precisi al mondo, cosa che noi invece non riconosciamo come paese di provenienza che dà il diritto di asilo rispetto a quelle situazioni politiche che sono in corso lì. E poi abbiamo visto con il direttore di Avvenire, Marco Tarquinio, il perché sì pensare che sia positivo, magari con qualche piccola modifica ancora, che in questa legislatura si intervenga su un tema aperto da tanti anni. Vediamo invece dal punto di vista non della giornata della CEI, ma dal punto di vista di chi da anni e anni crede e chiede che sia una politica che debba essere coerente con anche le politiche di proiezione dell'Italia nel mondo, con la sua politica estera nel mondo, e quindi con Riccardo Maggi. Perché sperare che questa legge faccia il passo avanti depurandola da quello che io temo invece prevarrà? Perché io temo che la paura dei grandi partiti prevarrà assolutamente. Tu che dici, Riccardo? Ma io ho avuto occasione non molto tempo fa di confrontarmi su questo con un esponente nazionale del principale partito, diciamo, dell'attuale maggioranza, del Partito Democratico. E ho tentato di spiegare l'importanza non solo che questa legge venisse approvata rapidamente, ma anche che fosse modificata la Bossi-Fini, perché il problema dell'asilo di cui parlavate prima è legato al fatto che attualmente in Italia non ci sono canali legali di ingresso nel nostro paese diversi da quello della richiesta d'asilo, e questa nonostante ci sia una domanda di lavoro nel nostro mercato del lavoro. Quindi questa è altra questione centrale. La risposta che ho avuto è stata unicamente una: i sondaggi. Allora, questa questione, cioè la possibilità che in questo mese, entro questo mese di ottobre, altrimenti poi la legislatura andrà verso la fine, si creino le condizioni per l'approvazione di questo Ius Soli, Ius Culturae. Tu lo sai che significa? È proprio, stiamo parlando di 5 giorni di calendario parlamentare, non 5 di più. Giorni di calendario è legata alla forza, diciamo, alla determinazione da parte dell'attuale Parlamento, di questa classe dirigente, di non rassegnarsi all'impotenza rispetto ai sondaggi. I sondaggi si possono cambiare, ma se si vedono invece come dei totem che vanno assecondati. Perché mi si è detto in quell'incontro, ma qui negli ultimi mesi è cambiato molto l'orientamento dei cittadini italiani. Prima c'era una maggioranza favorevole allo Ius Soli, adesso, nonostante, e proprio perché non si è più parlato di Ius Soli, ma si è parlato in determinati modi dell'immigrazione, dell'invasione, è diventata contraria la maggioranza degli italiani anche allo Ius Soli. Il problema è che, come sempre, quando si tocca un tema, però si preferisce, per evitare ogni asperità al dibattito pubblico, di fingere di non occuparsene, prevalgono quelli che lo strumentalizzano. Però questa è la mia opinione, Riccardo, non voglio contagiarti. No, ma assolutamente così, non si è voluto fare uno scontro politico su una questione di merito, spiegandola ai cittadini. Purtroppo se si vive con lo sguardo quotidiano alle tendenze, diciamo, sui social network, alle parole più ricorrenti o al sondaggio su questi temi, è evidente che si rinuncia a governare. Perché, per esempio, io che sostengo da anni che sui requisiti per la richiesta del diritto d'asilo l'Italia è come se fosse monca, cioè non fa un dibattito e delle scelte chiare, coerenti e trasparenti in cui si collega la politica estera. Quando dico politica estera significa la presenza degli strumenti militari nelle missioni internazionali, non solo, ma la presenza degli investimenti diretti esteri e delle politiche di cooperazione rispetto al giudizio politico di alcuni paesi delle aree da cui provengono richieste di asilanti, un numero molto significativo, perché noi abbiamo comunità di paesi con gente che richiede asilo nel nostro paese che sono completamente diverse da quelle che invece interessano la Germania. E su questo la politica estera balbetta, Riccardo, perché non c'è mai stata la connessione diretta tra politica estera italiana, giudizio su quello che avviene nei regimi in quei paesi e modifiche in tempo reale attive a seconda dell'evoluzione di quei paesi e del nostro giudizio della politica estera nel concedere o negare il requisito di provenienza da quel paese come requisito per cui ti do il diritto di asilo. Ma perché la politica estera italiana è così sconnessa? Ma la politica estera italiana è sconnessa perché da una parte, diciamo, il livello è veramente molto basso. Io basti vedere anche quello che è accaduto in Libia recentemente. Lì si è presa una scelta davvero irresponsabile di cui si pagheranno le conseguenze, e certo non si sta favorendo neanche la stabilizzazione della stessa Libia, in cui ci sono, come tutti sanno, degli interessi economici importanti dell'Italia, ma agendo in quel modo lì, con quel tipo di accordi, si è messo un tappo provvisorio, temporaneo, che durerà probabilmente molto, molto poco, e che non è certo quella una politica estera lungimirante. L'altro lato, un lato è questo dell'asilo e quindi delle norme sull'asilo, e l'altro lato, ripeto, è quello della legislazione italiana sull'immigrazione. Noi abbiamo una Bossi-Fini che ha prodotto disastri, perché non ha favorito l'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro rispetto al sistema economico e produttivo italiano, che ne avrebbe bisogno, e ha creato 500.000 di irregolari nel nostro paese. Attualmente sono dei fantasmi, alcuni li chiamano clandestini, non hanno possibilità di diventare contribuenti, lavoratori, cittadini, non hanno possibilità di regolarizzazione neanche quando lavorano. E se si prova a dire a qualcuno che è in Parlamento, beh, guardate che la Bossi-Fini va cambiata per regolare, esatto, non per aprire, esatto, indiscriminatamente. Esatto, per regolare, ma certo. Ti rispondono con... strabuzzando gli occhi e dicendo che cosa è impossibile. Non si può fare in questo modo. Come la via sui requisiti del diritto d'asilo è quella di lavorare, e si può fare in tempi rapidi, ragazzi, guardate, all'omologazione dei criteri, non ho detto della lista precisa dei paesi, ma dei criteri a livello europeo. Finché non sarà così, l'arbitraggio dei, tra virgolette, trafficanti di carne umana colpirà spietatamente, perché agisce proprio nelle maglie di divergenze troppo elevate tra quello che sono i requisiti dei diversi ordinamenti europei. Comunque, io ringrazio anche Riccardo Maggi, dico agli ascoltatori che si ostinano a credere che questa trasmissione di oggi faccia parte della campagna per la svendita dell'Italia, rifletteteci bene da padre di famiglia. Come abbiamo visto dai numeri attuali, la legge attuale, quella vigente, ha fatto passare da circa 10.000 nel 2011 a 76.000 nel 2016 le cittadinanze italiane concesse a ragazzi per trasmissione dei genitori, che sono ragazzi nati nel nostro paese, ragazzi che al 18° anno di età li facciamo cittadini italiani per questo, di non comunitari, figli di non comunitari. Pensateci, la legge si tratta di dire perché dobbiamo aspettare 18 anni, quando sono a scuola e frequentano la scuola da anni, qui non bisogna discriminare. E questa la faccenda che vi scandalizza e vi fa dire che svendiamo l'Italia? Ma di che cosa parliamo? Io mi rifiuto di credere, magari sbaglio io. Comunque, appuntamento domani alle 8:15 con 24 mattina con me, Luca Telese, e domani pomeriggio, come sempre, alla versione di Oscar.